Previously on Centocelle Avengers. Prosegue l'inchiesta di Centocelle Avengers in due puntate dedicate all'approfondimento mirato e specifico di un tema che appassiona e che è se ma ancora stai a pia per culo la gente? Anita... Ancora lo streaming sfaciolato? Ma come te lo dovemo dire che non regge più? Basta, levete, ce penso io. Prosegue alacre il lavoro della redazione di Centocelle Avengers, convinta di voler ripetere il successo del musical radiofonico. Tuttavia, un cinico redattore senza scrupoli trama nell'ombra. Di nascosto, egli mette in atto uno spregevole piano nel tentativo di prendere tempo ai danni della radio. Sfruttando il frequente problema della radio su web, lancia una finta puntata inchiesta durante la quale lo streaming salta sempre nei momenti salienti. Smascherato dallo stesso Iron Man, pentito per aver sostenuto la sua condotta eticamente discutibile, Suano non può che virare verso il più realistico e spendibile argomento delle aspettative: la poetica del cosone. Bentornati su Radio Forte, Centocelle Avengers. Chi vi parla è sotto inchiesta per truffa ai danni della radio. La trasmissione, come avrete notato, è stata commissariata. Ho perso la fiducia dei miei più stretti collaboratori e, soprattutto Anita, mi tratta sempre particolarmente male. Ma vedi, dannatela. Del resto la magistratura farà il suo lavoro. Ciò nonostante, siamo di nuovo qui, oggi, 4 marzo, a Centocelle Avengers, a parlare ancora di aspettative, Iron Man. Aspettative. L'ho detto, si è sentito? E come se si è sentito, eh? Stavolta parole scomode. Riprendiamo le fila del discorso. Cosa ti ricordi tu? Non capisco. Dai, qualcosa l'abbiamo detta, su. Il cosone bidimensionale, bravo, lo vedi che qualcosa ti ricordi? E cos'era il cosone bidimensionale? Spieghiamolo. Non ricordo. Una poetica, un tratto fortemente caratterizzante l'arte contemporanea e che consiste nel creare aspettativa, caricare a molla il contenuto. Come? Paventare di aver trovato la pietra filosofale e poi niente. Ma... La poetica sta proprio in questo, nel non avere un'idea precisa e fare arte sfrontatamente senza basi. Arte intesa a 360 gradi, proprio spaziando oltre l'infinito e menzionando in pratica solo le serie TV. Ma come? Eh sì, Iron Man, l'altra volta non abbiamo fatto in tempo a citare le miriadi di altre forme artistiche che hanno abbracciato questa poetica. Musica, cinema, financo il... Cosa? Niente, lo vedi che funziona? Ti ho creato un'aspettativa e tu subito mi hai dato retta pensando che magari parlavamo di... Cosa? Di... Smettila! Aspettative a Centocelle Avengers. Intanto questo è Good Time. Mi ricordi il signor Meyers? Tu ricordi il signor Meyers? Il produttore di Flash Forward. Nothing I can do about it. Spending money never matter, no. As long as benefit the damage, yeah. And now that you're living on the hill, I hope that your social life doesn't get you killed. Now are you having a good time with your friends and your friends' wives? vorrei che pensassi che m'accanisco solo con le serie TV, parliamo di film. Dune, il pianeta deserto. Perché te ne parlo, Iron Man? Non capisco. Intanto perché è di David Lynch, che comunque come maestro del cosone, dell'aspettativa, del nonsense è impareggiabile. Ma perché poi, prima di arrivare a David Lynch, l'opera letteraria Dune di Frank Herbert, un bel romanzone di fantascienza suddiviso in comodi mattoni, era già stato considerato da un altro grande genio, cioè? Il maestro Jodorowsky. Jodorowsky. Parliamo di uno dei più grandi film mai girati. Mai girati. Mai. Ma proprio mai. Jodorowsky è un... mettete comodo, va. Genio, visionario, scrittore, fumettista, drammaturgo, cineasta, attore, compositore, sceneggiatore, poeta e studioso dei tarocchi. Insomma, una bella capoccia. Negli anni 70 gli venne l'idea di portare sul grande schermo Dune e raccolse intorno a sé il fior fiore degli artisti dell'epoca, convinto di poter realizzare un film che avrebbe cambiato il mondo per sempre. Parole sue, eh? Realizzò una monumentale sceneggiatura insieme a Moebius, che disegnò più di 3.000 tavole tra scene e costumi. Mise in mezzo artisti come Giger per realizzare i cattivi del film. Giger, quello che ha creato Alien. Chiamò attori come Mick Jagger, Salvador Dalì, Orson Welles. E non fu facile convincere tutti, eh? Oh, lo sai come sono gli artisti, no? Vogliono essere ben pagati. Ad esempio, Dalì disse che avrebbe partecipato solo a patto di essere l'attore più pagato di Hollywood. Chiese $100,000 al minuto. E Jodorowsky accettò di pagarlo così, per i minuti in cui doveva apparire nel film. 5. Però, a fai conti della serva, gli venne un conticino di $15 milioni. Quindi niente, la sceneggiatura, seppur osannatissima, gliel'hanno pisciata. Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto, bravo. Grazie, adesso me ne puoi andare. Non ho capito, eccellente. Ah, ne hai capito? No. Ho detto adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Il copione ha continuato a girare sotto banco tra i registi di Hollywood, tipo Machiavelli. E poi arrivò David Lynch, che col giovane agente Cooper fece sta versione che noi tutti conosciamo e che mi piace da morì. Per questi motivi. Lo spiegone iniziale sui pianeti, chi so i buoni, chi so i cattivi, la spezia, che rappresenta un po' la droga del futuro, i Fremen, la minoranza perseguitata e fattona che sta rota di spezia, le tute distillanti, le tutine per sopravvivere nel deserto bevendo... Cosa? Vabbè, famo che erano belle esteticamente, va. Ma soprattutto il modulo estraniante, la poderosa arma distruttiva che poi ti risolve il film, eh? Basata sul suono della voce. Sha. Sha. Calmati. Sha la la la la la la. O sarebbe stata l'arma preferita di Mario Biondi, eh? Oh, e poi c'è il cattivo di Dune, il perfido Feyd Raut Harkonnen, che doveva fare in origine Mick Jagger. Qualcuno lo doveva fare, eh? E presero il caro vecchio Sting, direttamente dal Chianti. E chissà la versione nuova che si inventano. C'è tanta aspettativa, amico mio. C'è una cosa che non ho capito. Sì? Tu, chi sei? Io non ho detto niente. Io non sono lui. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I'm an English man in New York. Io ancora non ho capito come ha fatto a fregarvi a tutte e due. Ha usato la voce. Sì, vabbè, ma te sei vocione. Ah. Ma io l'ho detto che siamo commissariati dai poteri forti. A sta puntata già ho capito come finisce, eh? Vabbè, in onda fra 3, 2. Bentornati a 100 Celle Avengers, mai uguale a se stesso. E per la serie Cosa vi siete persi nelle scorse settimane abbiamo la prima apparizione di Iron Man in diretta su Radio Forte durante lo showcase degli Aldermans. Incredibile, incredibile. Co-conduttore. Ma Iron Man, dove sono gli artisti? Non capisco. Non lo so, sono spariti. Oh, qua non stiamo come a 100 Celle Avengers, qua c'è sta Maurello, qua le dirette arrivano in orario, mannaggia. Li ho trovati, stanno facendo un cino. Ma come un cino? Mi stiamo aspettando sul palco, non ho capito sti rituali mo dei gruppi, vabbè, mamma mia. Si stanno scaldando. Alexa, cerca su Google Aldermans. Sì, ricordiamo a Matteo che purtroppo Alexa non è potuta venire causa di gestione di contenuti e quindi oggi c'è il solo Iron Man con noi a sostenerci. Volevo dire che gli Alverman hanno rubato la scaletta, non sappiamo cosa dirgli. Allora, quando sono pronti, loro ci fanno un cenno che sono pronti, noi facciamo un cenno che ok, e poi loro allora partono e noi allora partiamo, però ancora no. Quindi pare che l'abbiano fatto, ok, però stavamo parlando, non l'abbiamo visto. Quindi il meccanismo non funziona. Era ok per dirci ok, avete capito che... Ah, era ok, abbiamo capito che quando siamo pronti vi diciamo ok, siamo pronti. Okay, o era ok, siamo pronti. Ah, era ok, siamo pronti. E allora bando alle ciance, ciancio alle bande. Un attimo, occorre posizionare la sedia per poggiare le birre. Ah, ok, allora prendiamo un altro minutino. Intanto... Ah no, la sedia è a posto. E allora niente, ciancio le bande e allora abbiamo gli Aldermans on Radio Forte Showcase. Bravo Iron, mi piace come hai detto botta, sempre battuta pronta, fresco, a tuo agio. Che c'è, te sto a mettere su un piedistallo, te sto a mettere? Sei senza scrupoli. Perché? Hai preso tempo usando un vero problema della radio. Quale? Lo streaming scacciattato. Ancora qua la storia. Tanto poi se salta e non ti si connette più. Puoi ascoltarla come podcast quando decidi tu. No. Sei pessimo. Ah. Hai dimenticato i tuoi amici. I miei amici. Quelli che si sbattono perché la radio non sia mai in silenzio. Oh, la radio è muta. La radio è muta. La radio è muta. La radio è muta. La radio è muta. La radio è muta. La radio è muta. Resettate lo streaming. Contattate il presidente. Avvisate lo stato maggiore. Chiamate Giorgino. No, non possiamo disturbarla quest'ora. Questa è un'emergenza. La radio è muta. Voglio Maurello al telefono entro 10 minuti. Oggi salterà qualche testa. Contatto ripristinato. Abbiamo una finestra di tempo. Possiamo risaldare la dorsale. E che Dio ci perdoni. Quel cavallo aveva bisogno di noi. C'è un falco da salvare. Il cane, il migliore aiutante del guardiacaccia, è in pericolo. Lo stambecco più bello del parco è in pericolo. Il mio amico esploratore aveva bisogno di me. A un tratto vidi che la strada aveva ceduto. Lassù c'erano dei cavalli in pericolo. Queste sono le mie soddisfazioni. Questa gente, questi profumi, qualcosa in più. Vabbè, ma non starete drammatizzando un po'? Quel cavallo era ferito. Sì, sì. Non ci eravamo mai sentiti così uniti. Dai, ti prego, resta. Non preoccuparti, io resterò sempre qui. No, dico, Litfiba, resta, su Radio Forte. E statti un poco con gli amici. Oh, mi hai cercato fino qui, sono ancora un po' stonato. Sto oscillando su una lama tra orizzonti e vertici. Oh, sei venuta fino qui, superando. Bentornati a 100 Celle Avengers, mai uguali a se stesso. Caro Iron Man, ci ho riflettuto e devo dire che avevi ragione. Su cosa? Sono stato un cincinello meschino, ma voglio porvi rimedio. Ah, sì? Ti presento Giorgino. Giorgino Iron Man. Ciao Iron Man. Giorgi, ripeti al mio amico quello che mi stavi dicendo sulla radio. Per adesso la radio esiste solo sul web, ma potremmo raggiungere l'etere e utilizzare altri mezzi di diffusione del segnale. Di cosa sta parlando? La modulazione di ampiezza, la modulazione di frequenza. A quel punto la qualità dell'audio sarebbe costante, non più legata al buffering o alla connessione di casa. Modulazione di ampiezza. Si sentirebbe sempre senza sganci di tempo, a prova di imbroglio. Capisci, Iron? No. Possiamo rimediare ai nostri mali e tu con la tua super forza puoi fare la differenza. In che senso? Iron Man, dovevamo montare l'antenna. Non capisco. Quali sono i parametri? È molto grande. Vabbè, mo sti dettagli li capiamo. Intanto muoviamoci. Io? Dai. Dai, andiamo. Un po' d'attività fisica non può che farci bene. Cazzo, ma perché deve essere così grossa sta antenna? Perché per trasmettere un'onda grande ci vuole un'antenna grande. Ma che vuol dire? Ma che è uno spot? No, in questo caso, cioè, non basta una grande antenna, ma ci vuole un'antenna grande. Cioè, la modulazione di ampiezza trasmette sulla banda di frequenza delle onde medie. Onde medie vuol dire che sono onde molto lunghe, tipo 200 metri. E quindi se volessimo fare un'antenna ottimale, questa antenna dovrebbe essere alta 200 metri dal suolo e dovrebbe avere due braccia da 200 metri, per esempio. E la Madonna! Ma noi non possiamo fare un'antenna ottimale, possiamo fare un'antenna subottimale. Quindi quanti metri è? È 12 metri, peserà 120 kg. Forza, tutti insieme! Oh, Issa! Oh, Issa! Iron Man, è il tuo momento! Ok. Dai, che sta pure a cominciare a piovere, mannaggia! Pianta sto palo! Allontanatevi! Allontaniamoci! Va bene così! Fermo così, vado a chiedere! Sbrigati! Non so quanto posso resistere! Giorgi, com'è la ricezione? È perfetta, non era mai successo. Credo che il vibranio di Iron Man stia conducendo il segnale. Sta per cominciare il radiogiornale. Ok, prendo un po' di tempo. Iron Man, amico mio, dovresti resistere un altro pochino. Cosa? Stiamo stabilizzando il segnale. Lo so, non credevo neanche io che sarebbe stata una cosa lunga. Liberami. Dovresti giusto resistere per la durata del GR. Cosa? GR. Ma... GR, oh, non riesco mai a dire, insomma. Cazzo! Dai, non fare quella faccia! Volevamo renderci utili, no? Giù sono tutti contenti, finalmente siamo in AM! Non lasciarmi sorridi, qui! Sorridi, Iron Man! Sorridi! Ci sono i fulmini! Ci sono i... Salute. Io. Dai, quante volte ti ho chiesto scusa? Vediamo un po'. Vediamo un po', Alexa, quanto c'ha? 42 e mezzo circa. Non capisco. Lo vedi, delira. Maledetto. Dai, facciamo pace, vecchio mio. Voglio davvero farmi perdonare, sai? No, lascia perdere. Ti prego. Ma sì, ti dico. Vedrai che mi ringrazierai. Ora che sei allettato, possiamo approfittarne per ripassare un po' di musica. Sei pronto? No. Sigla! Piano che c'è mal di testa. Oh, bene carissimo, per sdebitarmi della brutta freddata, oggi, in linea con l'argomento che oramai perseguiamo da quando mi hai sbugiardato, ti parlerò dell'aspettativa in musica. Lasciami stare. In una parola, oggi parliamo degli accordi sus. Suspense. Sì, sospesi, più o meno. Comunque sia la maniera codificata con la quale in musica si crea sospensione, attesa, il cosone. Il cosone, ancora il cosone. Tutto nasce da un semplice accordo maggiore. Prima, terza, quinta, do mi sol, tanto per cambiare, al quale tu punti. Io non. Tu ci vuoi arrivare? Vuoi arrivarci, ma non subito, dopo un certo momento. Momento di attesa, di sospensione, che tu crei come? Come? Spostando la terza, mi in questo caso. Ecco allora che sposti la terza indietro sulla seconda, sul re, e voilà, nasce il sus 2. Ti prendi il tempo per risolvere, con calma, dopo che ci hai pensato. Allo stesso modo, caro amico mio metallizzato, puoi spostare la terza, sempre mi, in avanti, sul quarto grado, fa, e ti ritrovi il sus 4, con ancora più voglia, più ansia di risolvere, sempre in do. Sapessi che voglia. Tutto chiaro fino a qui? No. Sì, perché ora dobbiamo mettere insieme le due cose, in maniera così, alchemica, e arrivare al trick della settimana. Cosa succede se mettiamo insieme sus 2 e sus 4? Cosa succede? Dal Teatro Centocelle in Roma va in onda il Suono Just Cares For You Show. Capito? No. La vecchia finta di corpo alla Bragardi. Bragardi, sì, sceneggiatore, autore, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente il pianista del Costanzo. Cosa? Sì, colui che oltre a suonare la famosa sigla, aveva poi il compito di sottolineare i vari momenti del talk show, risolvere i momenti di incertezza o di forte humor, ma soprattutto, stando al ritmo del maestro che, si sa, col tempo si è anche un po' rincoglionito, che quindi ti lascia lì, guardate, bravo, gestire i saluti finali. Un bel applauso a Iron Man! We'll be right back. e si ripiazzava lì, in attesa, sul fa basso sol, cioè un sol sus 2, sus 4, che anche detto sus 9, magicamente, armonicamente, tende verso il nostro vecchio do. Quindi tu con la mano sinistra mi prendi la dominante, cioè sol, la quinta, con la destra prendi fa la do, suoni l'accordo maggiore sceso di un tono rispetto al sol, quindi fa. E magicamente, armonicamente e con tutto il tempo che te pare, ti ritrovi al do maggiore. E allora, in conclusione, vecchio Iron Man malato, usiamo questo tempo che ci offre la sospensione per annunciare anche oggi il contributo dei solisti. Sigla! Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è. Ed eccoci giunti puntuali, secondo le aspettative di qui sopra, all'attesissima rubrica dei solisti, che oggi addirittura si presenta in razione doppia Iron Man. Ah sì? Come festeggiare meglio l'anniversario del nostro fu saggio d'inverno 2020, era il 23, se non con un bel solista Amarcord di quell'anno lontano, accostato ad un brano solisti 2021 fresco fresco? Non capisco. Un solista del momento. Un solista del passato. Solisti su Radio Forte. Questo è Andrea, ma facciamolo presentare a lei, la maestra Serena. Un brano che ha scritto lui e si chiama Al riparo dal sole. Lui è accompagnato da Nicola alla chitarra. Un applauso a queste parole. Grazie. Vuoi restarmi qui accanto senza luce solare? Vorrei essere il buio che ti aiuta a scordare. A ogni alba è la guerra fino al tramonto. Ma la notte ci teneva lontani dal mondo. Non si può amare senza essere seri. Posso ancora parlarti dei miei desideri, anche se poi li vedo solo quando non credo. A ogni albatale ho trovato il calore, un rifugio sicuro per ogni dolore. Per non soffrire ho imparato a sparire. Dal sole ho trovato il calore, un rifugio sicuro per ogni dolore, per non soffrire ho imparato a sparire. Vuoi svegliarti al mio fianco e continuare a sognare o restare a guardarci senza poi sopportare il mio calore fraterno, quel freddo d'inverno, il tuo viaggiare anche quando stai fermo. Al riparo dal sole ho trovato il calore, un rifugio sicuro per ogni dolore, per non soffrire ho imparato a sparire. E non avevo capito, mi indicavi la luna, io guardavo il dito, mi indicavi la voce che si ascolta di notte, altre luci che sempre ha guidato le rotte. E provavo un dolore che non aveva parole, e tu parole ne avevi ma non provavan dolore. E non avevo capito che le parole eran luce e che io al mio dolore non volevo dar voce. Nai, nai, nai, yeah. Al mio dolore non volevo dar voce. Nai, nai, nai. Al mio dolore non volevo dar voce. Nai, nai. al mio dolore non volevo dar voce. Na, na, na. Al mio dolore non volevo dar voce. Un solista del momento. Un solista del passato. Non lo ricordi, non lo vivi. Radio Forte. 100 celle Avengers. Tienimi su quando sto per cadere. Tu siediti qui, parlami ancora. Se non ho parole, io non te lo chiedo mai. Ma portami al mare a ballare. Non ti fidare. Sai quando ti dico che va tutto bene così? E perdonami. Sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve a niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto bello è speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami. Se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Confine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite o un nome alle cose, lo trovi pericoloso e non sai come prendermi, mi dici ma non so se ti credo, senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Il cuore, io so disobbedire, questo lo sai bene, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, e non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare, stiamo a vedere dove possiamo arrivare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre, ma non basta mai. Ed era Violet su Radio Forte, 100 celle Avengers, ed ora sento una perturbazione nella forza. Bentrovate e bentrovati sulla rubrica più attesa del web, avevo detto io. Ancora una volta la nostra Virgi ci farà gettare uno sguardo sul passato con i suoi e nostri amati Beatles. Cos'hai da raccontarci oggi, Virgi? Bentrovati a tutti voi. Oggi, un po' inaspettatamente, volevo portare all'attenzione di tutti la faida più inutile della storia della musica dopo quella tra Mozart e Salieri. Oggi si parla di Beatles contro Rolling Stones e per l'occasione abbiamo chiamato un esperto del settore, il nostro acclamato Francescone Nazionale, venuto a portare il suo occhio critico in questa strana discussione che ancora oggi scalda gli animi di molti, ma che in realtà ha poco senso di esistere. Oh, vedi quanto sono imparziale. Voglio proprio vedere. Benvenuto Francesco, allora, è un onore averti qui. Grazie, it's a pleasure. Ma entriamo subito nel vivo del discorso. Vuoi raccontarci cosa stavano combinando i Rolling Stones al loro inizio? Chi meglio di un fan come te? Allora, siamo pronti. Beh, iniziamo a parlare del 63. Jagger e compagni avevano appena firmato un contratto vantaggioso con la Decca, ma avevano difficoltà a trovare brani da classifica. Il caso volle che il loro produttore incappò per caso in Lennon e McCartney. Gli raccontò la loro situazione e loro decisero di regalargli un pezzo. I Wanna Be Your Man. Fu il primo pezzo da top 10 dei Rolling Stones. Eccala. Quindi possiamo dire in qualche modo che gli Stones sono entrati nella storia della musica grazie ai Beatles. Beh, non esageriamo. Insomma, la mano c'è stata, ma la qualità è nettamente superiore e si sente. Francia, io te dovevo spiegare un paio di cosette, me sa. Nettamente. È un pezzo scartato che è cantato da Ringo, eppure mille volte meglio, eh. Ma se i Beatles volevano solo fare canzoni per le fans femminili, gli Stones invece suonavano per chi apprezzava la musica. Ah certo, perché è così scontato che una fan dei Beatles dell'epoca non avesse gusto musicale, no? No, no, regà, dai, ma non era senza senso sta faida? Ci penso un attimo io, eh. Su 100 Celle Avengers state per ascoltare i due pezzi a confronto, ognuno in egual misura importante, vero? Vero? Ma gli Stones suonano ancora oggi. Ma se c'hanno il defibrillatore dietro al palco? E non litigate, ma che è sta roba? Ma te la sei ascoltato, Beggar's Banquet? Quando facevano il blues erano imbattibili. Ah, stai parlando dell'album la cui presentazione fu fatta in pompa magna per la TV, invitando artisti da tutta la scena rock inglese. Lo sai che è rimasto di quel concerto? Un blues, sì, ma suonato da John Lennon. Con Air Blues se li è magnati, tanto che decisero di evitare di proporre quel progetto e non fu mai trasmesso. Se vergognavano. È perfettamente normale non essere soddisfatti quando si vuole alzare il tiro. Air Blues è invecchiata malissimo. John Lennon il blues non se lo sarà manco mai sentito. Ma non è una canzone, è una parodia. Era tutto calcolato, dal testo alla struttura. Guarda che il blues è disperazione. Il blues è disperazione se è fatto bene. Ma che è solo quello? Due note. Vabbè, ho capito, io a te non te ce dovevo chiamare. Io vi saluto, eh. Virgi, non fare così. Virgi. Oh, ma davvero sei riuscito a zittirla? Non ringraziarmi, I'm your guy. Se n'è andata? Veramente? Pare di sì, pare di sì. La rubrica è nostra? Beh, io non scatenerei il mostro, eh. Perché io avrei una mezza idea. C'è un Ringo su Instagram che scrive proprio un sacco di cose carine. Però Virgin non mi fa mai dire niente. Posso? Io c'ho paura, regà. Allora, tipo, ho scoperto Ringo su Instagram durante la quarantena. È stato amore a prima vista. Diffonde messaggi di pace, nelle foto ha sempre l'indice e il medio alzate. Avreste dovuto vedere il 1 gennaio 2020, quando ha pubblicato la foto di una crostata con sopra pezzi di pasta frolla a forma di simbolo della pace, cuoricini e la scritta 2020. Povero Ringo! E ancora messaggi di coraggio che, nonostante la paranoia del momento, mi hanno tranquillizzata. Tantissimo, non voglio dire che è il mio guru, ma voglio dire che è proprio uno di noi. Che tipo Ringo, era il meglio. Sentite, o adesso o mai più. Io ci avrei un pezzo dei Beatles rifatto nella versione di Kurt Cobain. Giuseppe, guarda che te licenzia. Io la mando. Bellissima, pure meglio dell'originale. E piuttosto, che ne pensate di dare finalmente un nome a questo spazio? Io la chiamerei La La Lab. Aspetta, ho sentito dei passi. Fa schifo! I Rolling Stones, i Beatles rifatti da Cobain, La La Lab. Ma come vi è saltato in mente? Io sto qua a distruire tutti voi per innalzare ad un altro livello la vostra cultura musicale e voi mi ripagate così. Per lei porci proprio. Ragazzi, fuori, fuori tutti. Fuori, ho detto. Ma non dovrebbero dire a Barbaro, scusa? Non rompe, so British. the first sounds recorded on Mars. Capito, Iron Man? No. Questa è la registrazione audio della sonda Perseverance. Ne parlano tutti, cuoco e tu. Ascoltiamo bene, sono emozionato. The sound of Martian winds. Ma questo è l'audio di una meteora. No. L'hai capita la freddura? Il Ma che gancio t'ho fatto? È piaciuto? No. Eh? Parliamo di artisti che hanno deluso le aspettative. Le meteore, appunto. E il gancio Focus mi era piaciuto molto. Beato te. Abbiamo stilato una lunga classifica di flopponi, caro Iron Man. Flopponi. Sì, ma abbiamo detto che il cosone, la sua poetica bidimensionale, di facciata, scenografia monumentale dietro niente, non è proprio un floppone e basta. È un floppone fatto bene, con tutte le potenzialità per spiccare, ma niente, non vola. Quindi la lunga classifica di qui sopra si è ridotta alle prime tre posizioni. Che strano. Strano, strano. In terza posizione, per la neonata rubrica Mando so finiti, abbiamo, vabbè, un po' i capostipiti, i plagiatori di Sanremo, i Jalis. Fiumi di parole. Fiumi di parole. Mentre in seconda posizione ancora ricordo quanta speranza riponeva il mondo in questa band. Colgo una certa ironia. E sono gli Sugar Free, Mando so finiti. A guarire a questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania. Vincono a mani basse anche in quanto categoria degli scartati della scuola di musica, i Velvet. Ti ricordi Iron Man? Boy Band. Te lo ricordi? Ma dove sono finito? Vabbè, ho già detto. Obiettivi di un'estate. Parlando di aspettativa, speranza e quant'altro, soprattutto aspettativa in musica, amici di Radio Forte, Centocelle Avengers, il nostro pensiero va come sempre al laboratorio di musica d'insieme. Cucina di idee, vivaio di talenti, ricettacolo di aspettative mancate, sì, perché come abbiamo detto il saggio d'inverno del 2021 non c'è stato. Come la seconda stagione di Flash Forward che il signor Meyer aspettava tanto. Ancora Flash Forward. E quindi noi, col nostro piccolo droide riconvertito al bene, DR100, andiamo nuovamente a spiare la Mesopotamia. E bisogna dire che ultimamente DR100 è diventato ancora più indiscreto. Questo gruppone di gruppi dal nome di popolo, sumeri, fenici, assiri, babilonesi, già l'abbiamo detto, che costituiscono la speranza delle future generazioni musicali. Pace e secchio. Tutto Dai, che tra un po' si torna al bianco, ragazza. Torna al bianco? Perché fa più caldo, no? Quando farà più caldo. Sì. Pensavo ai colori dei giorni. Che presa a male, si sono sciolti pure i Daft Punk. Sì, nell'acido. Ma era puntata sulla musica classica? La possiamo chiamare 800 Cell Avengers, eh? Ma la possiamo fare in costume? Oh, è nonno dal saggio di musica del 2020. Vi faccio un test di intelligenza della facoltà di fisica. Ci sta una fortezza nella quale si può accedere solo in possesso della parola d'ordine. E questa si ottiene dalla derivata prima. No, aspetta, derivata seconda della funzione originaria della distanza dal portone. Insomma, enter primo. Non vi ho detto che la... Francè, ma veramente stai facendo? Namo, che c'ho fame? Sì, sì, Namo, che c'è pure la redazione. No, vabbè, ma il cruciverbone radiofonico? Indovina quanto sono i fagioli? Oh, mo, qui c'avevo un buco. Sì, vabbè. Chi deve uscire? Parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te, a chi sputa più lontano, rompere i vetri delle fabbriche, farci sgridare da qualcuno. Ah, che noia essere grandi, andare ai compleanni, parlare di soldi e dei figli degli altri. Ah, è tardi e devo già andare, e mi manca aspettare l'estate, comprare le caramelle colorate, e mi manca la strada in due bici. Ciao, sono Captain America. Vi parlerò di una delle caratteristiche più preziose che un soldato o una studentessa possa avere. La pazienza. A volte la pazienza è la chiave per la vittoria. A volte porta pochi risultati, da sembrare che non serva. E ti domandi, come mai ho aspettato tanto per una cosa così deludente? Bene, cari miei, siamo alla fine. E come ormai consolidato nella tradizione di 100 Celle Avengers, la chiosa letteraria che tutti ci eleva. Sì. Tirando un po' le somme della puntata e dell'argomento di oggi, l'aspettativa delusa. Il momento Fabio Volo. Ci sarai, Fabio Volo, e comunque Fabio ha una sua sensibilità. E allora io ti dico, garzoncello scherzoso, coteste t'ha fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro e sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta, altro dirvi non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave. La donzelletta, insomma Leopardi, perché era Leopardi, cosa vuole dirci col suo sabato del villaggio? Che il sabato è meglio della domenica. Che la felicità non è nel traguardo che tu persegui, ma nell'aspettativa che ti crei prima di raggiungerlo. È lì che te la devi godere, non dopo. Che tu stia cercando di raggiungere nuovi orizzonti radio. La prossima volta trasmettiamo fino a Sulmona. Che tu cerchi di stupire qualcuno con le tue idee. E non ci crederà, signor Meyers, ho pensato anche un modo per far tornare il cugino di Matthew che si era perso in quel viaggio in Thailandia, nella... Simba, la pappa. O che tu semplicemente cerchi di essere uno speaker. Ramar, Ramar, Rabarbaro, Rabarbaro, GR, GR. Troverai che il viaggio è meglio dell'arrivo. Questo è Scrubs. Hai fatto lo spiegone alla Scrubs come JD. L'ho fatto? Mi sa che la prossima la facciamo sulle serie TV. Argomento vasto, ma siamo pronti. Oddio, l'ho detto. Oh no, di nuovo. Più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile, irraggiungibile.